secondo me quello lì può essere un discorso che ti salvaguardia un po' di più. No, non è così, Robert, perché io la carne la mangio, io sono carnivoro. A me del mare mi piacciono solo frutti di mare, molluschi e crostacei. Il pesce lo mangio qualche volta, ma non è che mi attiri più di tanto. Ma i frutti di mare sì, i frutti di mare a gogo. Mi piace la pasta ai frutti di mare, allo scoglio, eccetera, eccetera, eccetera. Però la carne la mangio, a me piacciono tutti i tipi di carne. Ultimamente stavo mangiando carne di cavallo perché dopo che mi hanno fatto l'operazione mi si è abbassato il ferro e mi veniva da svenire, ero debolissimo, proprio non mi reggevo in piedi. Come ho mangiato carne di cavallo, carciofi, legumi, mi sono ripreso. Che avanti, che è che fanno? è così. Falcone, così, io dico la verità. Anche i pesci mangio, ma li mangio così, non è che mi attirino più di tanto, capito? Però i frutti di mare mi attirano un bel, mi piacciono un bel. Avanti Falconero di nuovo, col buongiorno. Qui c'è Roberto Quadrato e poi chi c'era? Eugenio da Portottore, se non so se lo sente. Ma a me non mi ascolta per te Falconero, io lo sento basso, Santiago 7, lui non mi ascolta. Roberto Quadrato, no, non mi ascolti. Ma dove sei tu? Da dove stai modulando? Ah, sai che l'avete sovramodulato? Da dove? Non ho capito. Boh, non ho capito già. Ripeti tu cosa hai detto, non ho capito bene. Ha detto che sta parlando dalla zona della Billellera, su e mi. Ah, no, ho capito bene, infatti non riuscivo dalla zona, ho capito il Ponte Nuovo, non riuscivo a capire il Ponte Nuovo. Ok, chi c'è stato un break? Avanti. No, perché arriva così basso? Allora te l'ha capottata, roba. È mezzo al QRM, adesso si abbassa, poi c'è il segnale, sale 7, 8, sì, buh. Non capisco se sta, ma c'è il vento forse. No, è lui che c'ha l'antenna che è capottata. Sapendo il coso del padrone. Oh, qua già arrivi bene, io già ti ascolto bene. Il fatto che magari dipende anche dalla zona, io sono in zona buona per te. E vabbè, poi tu ti rinforzi con l'ema di la Billellera e quindi arrivi più forte. Ah, che diventiamo macchi burunosi, no? Ui, almo se cazzate. Vabbè, riprendi. A proposito di Falconero, la te la metti a Falchetto già? Falchetto, sì. Cazzo, ha fatto molto, non lo so se si è rimesso, dai. Perché problemi ha avuto? Sì. L'ho trovata a pronto soccorso, addormentato una notte, che sono andato a portare lo zio di mia moglie e si era colpito con una mazza alla gamba. Stava togliendo un ferro che era puntato in terra perché lo faceva inciampare in campagna. E si è beccato la gamba, gli si è fatta gonfia come un palloncino. L'ho portato alle 4 di mattina, c'era lui che era coricato a pronto soccorso dove vanno tutti i barboni. E gli ho detto cosa c'aveva, mi ha raccontato tutta la storia, che qua è un po' così, dai. Mi dispiace, dai, ma era tranquillo, lui purtroppo ha avuto dei problemi familiari, abitava in via Rockefeller, nel palazzo dove abitava un carissimo buonanima amico mio, che è proprio di fronte, ed era cognato, non mi ricordo di chi, di un altro amico mio, ma poverino, mi dispiace perché lui ha avuto problemi familiari di lì, probabilmente è andato in depressione. No, ma poi penso che si sia rimesso a posto, vabbè, penso che sia ritornato tranquillo. No, lo so, guarda, io sono anni che non so più niente perché ti ricordo in radio almeno 4 anni che io poi non stavo entrando e lo sentivo di lì, qualche volta ci abbiamo fatto la chiacchierata. Lo so, purtroppo la vita non si sa mai come gira, capito? E quindi niente. Mi ha detto che l'unico posto dove poteva dormire al caldo era lì e se andava alla fonte soccorso perché c'era il riscaldamento, capito? No. Guarda, io ho un amico, non dico chi è perché lo conoscete tutti benissimo, perché entrava anche qua, tra l'altro è anche, oltre che ci era un'altra cosa, dai, lasciamo perdere. Questo qua è venuto in officina e mi ha chiesto delle, non dico aiuto, delle informazioni, non dico mi sono messo a piangere quando me l'ha detto, ma si difende il coso, vivendo in tenda vicino al centro commerciale. Auguriamoci che si sia ripreso, io non l'ho più visto, tutte le volte che lo vedevo l'ho visto, da lavoro, tutte le volte era così. Lo trovavo, lo vedevo sempre travagliando, poveraccio. Piace, ripreso. Ma di Falchetto sempre sta parlando lì? Sì, fratello di Falcone, sì. Di Falcone? Di Falchetto, fratello di Falcone. No, io Falcone non ho avuto l'onore di conoscerlo e non mi sono perso niente, mi immagino. Però portiamo in officina se vuoi. Vai, vuol dirlo già. Non lo conosco, può essere meglio di me, non posso giudicare, però dalla descrizione tenetevelo voi. C'è un naso più lungo del tuo, Robeba. Ah, la radio è un bel spigliato, poi tu lo trovi, abbassa la testa e non parla. È vergognoso. C'è un naso più lungo del tuo, Robeba. Peggio di Pinocchio, allora. Ma la probuscita. Che buon caffè. Non va tenuto a per favore. Comunque, quella persona lì, ci bisogna fare tanti nomi. Non è più a casa, è tutto, è tranquillo, sereno e vive dalle sue, ok? Quello che sto dicendo io, Claudio. Sì, sì, sì, quello che abitava lì a Rizzetto, per capirci. Va bene, a Rizzetto, insomma, sempre di Sardone, Montelepre. Va bene, sta a posto, l'ero sempre cambiato, pulito, ordinato, non ha bisogno di niente. Reddito di cittadinanza, vive tranquillo e sereno e mangia e dorme dalle suore. Ah, ma tu stai parlando di Falchetto, no? Io sto dicendo di un altro, claro. No, io degli altri non lo so, io mi sono visto Antonio da poco, ci siamo visti, ci abbiamo fatto anche una chiacchierata e non so, ci siamo messo anche i denti. No, io non l'ho mai visto, mai conosciuto di persona, no? Non so ma come per fare. Sì, ma io sì, però io ci scivo anche. Va bene, va bene. Purtroppo non bisogna mai dire tutto va bene, tutto è a posto, tutto è ok. Le disgrazie possono succedere in 24 ore, quindi purtroppo è andata così. E io, soprattutto con la persona che stavo parlando io, che tu conosci molto bene già, è claro, voglio dire. È quello lì di famiglia buona, benestante, non ricca, benestante, quando è giunto in officina mi sono messo le mani in testa e sta facendo il barbone a Pedagnesa. Al centro commerciale c'aveva una barchetta, recuperava qualche pesce, gli hanno rubato pure la barchetta, dicevo senza niente, non ho più niente da mangiare, ho detto se me ne danno la carità, sono senza mangiare. Adesso se mi dici com'è la situazione, tra l'altro gli è morto, la madre è morta forse neanche un mese, perché sono andata al funerale. So perfettamente di chi stai parlando e anche lui l'ho visto e non sono discorsi a fare qua, dai, lasciamo perdere. Purtroppo quando uno sembra che sia tutto a posto, possono succedere disgrazie, lo ripeto, da un momento all'altro. Non bisogna mai, bisogna stare sempre all'erta. Ehi, adesso purtroppo, cacchio. Vabbè, cambiamo argomento, cioè non basta questo da coronavirus, sennò c'è la tristezza, cerchiamo di trovare argomenti interessanti e piacevoli soprattutto. Ok, vediamo se l'amico di Sorso, Falconero, c'è ancora, lo ascolto malino, dai, avanti Falconero. No, perché sto facendo altre cose, ogni tanto faccio capolino, cosa ha detto? Ti ha detto qualcosa che non va bene, tu dillo a me, già arrangio io con Gianni. Ma Gianni è uscito, Falcone, Gianni è proprio giriato, capito? Non ce lo può permettere mangiare le ostre, che i gamberi e queste cose. E noi non ce lo possiamo permettere, cosa vuoi fare? Dimmi. Che si piazzava? Antonio sta dicendo. Antonio Gamba. Quello che aveva la moto grossa, come si chiama? Che lavorava a Porto Torres. Non è Antonio. No, si chiama Antonio quello. Salvatore, cioè non Antonio. È tutto cambiato. Prima facevamo tutte queste cose, adesso cosa di buona fa? Non è più nessuno. Ah, se venite d'estate, qualche volta anche dopo l'estate, c'è questo tipo tedesco con un camper, di quelli motorom, quelli grossi, c'ha un traliccio, si porta questo traliccio con una direttiva, una cosa spaventosa, di quelle motorizzate, e qui deve avere questa attrezzatura che c'ha questo, sempre a Fiume Santo si piazza, c'è la spiaggia, lui e c'ha la moglie, sono anziani, tutti e due, solleva questo traliccio telescopico motorizzato e si piazza questa antenna, sarà un 10 metri di antenna. Sì, vabbè, quando facevamo l'assistenza a Rally anche noi partivamo tutta l'attrezzatura, piantone a terra con la piastra dove appoggiavi la ruota della macchina per tenere il piantone fermo, innestavi il tubo telescopico, tiravi su antenne, riporre, anche quando come non andavo io, ancora lo fanno, andavo io a fare le cose, le spedizioni eccetera, attrezzatura già la mettevamo. Io per un periodo, quando ci avrò, devi metterlo al 4,40 sopra sedile, così avete. Non è quello il problema. Vabbè, i tempi sono cambiati. Hai lo peggio il balcone, Gusci è. Gianni Gusci, a lui le piacciono queste cose. E allora noi mangiamo battato, mettevate in associo. Io non ho detto che non mangio carne, io sono anche sono soprattutto carnivoro. Mi piacciono i frutti di mare e i molluschi. Ho capito, ho capito. Però tu lo dici a Falconero queste cose e domani ha battato a Sciuscio. E tu ti hai fatto tutta la giura, capito? Ha detto che gli asparagi e cartocci lo rimangio, quelli mi piacciono. Li ho assaggiati per la prima volta Ussi quando hanno fatto la cosa Carici di Stelle. Li avevo mangiati lì, mi sono piaciuti molto. Gli asparagi solitamente a me non piacciono, però così fatti così a cartocci erano buoni. Ah, oh già. Ma tu le prendi, vabbè, ogni tanto si possono prendere quelle cose lì. Ho detto le ostriche, ma a casa, come cacchio fai ad aprirle? Col coltello. Come col coltello? No, io non gli ho provato il cacciavite, già mai buco la mano. Perché c'è un punto per aprirle, Claudio. Non è che le puoi aprire a tutte le parti. C'è un punto dove l'ostrica è più debole, tu gli entri il coltello dentro e poi allarghi. Bisogna essere esperti a aprire le ustriche, non è che è da poco, non è una cosa da poco, bisogna saperlo fare. È la mossa, li metti col capanno a colonna. E oggi tutti buon arrivi. Non è di canto che gioco a cazzata che non riesci a aprirla, gioco a terra. Cos'è? Che l'ostrica se è viva, dopo che tu gli entri il cacciavite, se gli entri male si chiude di più. Sì, un casino, no? Una spuntina l'avevamo. Ma ti dico, il legante mi ha fatto incazzare, giocata a terra, si è aperta. Non ci sono riuscito, Non ci sono riuscito. C'era uno, ci aveva una tecnica, però ci aveva un coltello non con la punta, Gianni, è rotondo. Sì, anche rotondo va bene. Praticamente noi anche in pescheria le aprivamo per farle vedere qui. L'unica volta che mi è successa una cosa brutta in pescheria, sai cos'è? Questa cliente continentale tale voleva sapere come si pulivano i calamari. Allora io ne ho preso uno e glielo stavo facendo vedere come si apriva. Gli ho tolto la spina per fargli vedere come si toglieva, ho detto così poi glielo metto insieme agli altri. E come li stavo togliendo la spina, cazzo, ha schizzato l'inchio sulla biglia della maglietta. Pari a un film di comico. No, beh, i calamari, il pesce, quelle così già sono pulite. L'unica cosa è le ostriche. Basta. Le ostriche mi hanno sempre dato fastidio. Quelle poche volte che le ho mangiate mi hanno dato fastidio, la verità. Non sono mai riuscito ad aprirle. Assolutamente. Anche a un matrimonio una volta, fortunatamente le hanno portate già aperte come antipasto. Se no non avevo mangiato, che avevo fatto brutti figuri. Va bene, ma Roberto, perché sei a casa tu? Non siete chiusi? Sì, no, vabbè, sabato lavoriamo sino alle 10, ma oggi siamo andati così e buo, ho aperto io Danilo e basta, non è venuto nessuno, Riccardo è rimasto a casa, tanto siamo fermi, no, è tutto bloccato. Minchia, anche voi, insomma, io a gara. Non sono andato a trovare Salvatore l'altro giorno. Salvatore Marras stava consegnando appunto quello che aveva e poi chiudevano anche loro. Un bel casino. Un altro morto c'è stato a Sassari, l'avete sentito? Non l'ho sentito. Sì, un altro morto, ma non è neanche vecchio. Guarda, io ho detto dall'inizio, devono fare i tamponi a tutti quanti. Spendi un po' di soldi lo Stato, fai i tamponi a tutte le persone che ci sono in giro. Così sappiamo qualcosa, non puoi andare a esitare che si ammali qualcuno o che muoia qualcuno. Allora, c'è il computer acceso, proprio nelle ultime ore. L'Italia chiude tutto quello che può e va in lockdown, praticamente tutto chiuso. Per ora è temporaneo, ma più avanti penso, oggi l'Italia è un paese lockdown, praticamente chiusura totale, ma come in Black World Down nel film di Harry Scott, siamo il morbo, libertà, praticamente tutti i sindaci dell'Italia vogliono che si chiuda tutto completamente. Sappiate che anche i supermercati chiudono alle 6 di sera e domani è tutto chiuso, non ce n'è apertura neanche per i supermercati grandi, quindi Conad, Bicobert, Eurospin, tutto. Infatti ci sono i carabinieri e i vigili urbani, io sono uscito a prendere l'acqua, ci ho rinunciato, va bene, ho 5 cartoni, però ci ho rinunciato perché oggi c'è un arresto allucinante da tutte le parti. Claudio, a me mi hanno scritto che se voglio me la porta al Tourist Market a me a casa la spesa, gratis. In Castellova la butta pure a me. Ma gratis il trasporto già? Quando, no, il trasporto non lo pago. Quando c'hanno le consegne qua a Sassari, poi di oggi ce le avevano a Sassari, le consegne, e mi ha detto se mi serviva, invece me l'ha comprata, me l'ha fatta Liliana la spesa, quindi non ho avuto bisogno, anche se ha trovato la metà della roba che gli ho scritto, perché non si trova quasi nulla. Oh, beh, c'è anche quella possibilità. Beh, no, io esco così, non mi frega niente se devo fare la fila, però oggi ce n'era troppa, capito? Ce n'era troppa, siccome è aperto sino alle 6, alle 5, 4 e mezzo, 5 non vado, mi faccio altre due cosette, no, ma c'è il freezer pieno di carne, di pesce, legumi, verdura, formaggi, affettati, c'ho tutto. Volevo prendere il caffè, mi mancava, l'ho preso stamattina e volevo prendere anche l'acqua, invece poi ci ho rinunciato, però già... Per tutta la settimana io sono a posto, io ho fatto 2 zecchini di pesce, già va bene. Però a volte stai lì, manca, devi fare una cosa e non l'hai scritta, ti manca, capito? Vai a prenderla e c'è un casino nero oggi, non conviene, perché domani è tutto chiuso. Non ti va con lei, è a Sorso, è tutto a becco. Abbiamo già arrato il negozio di Sorso. Già ho capito che sia a Sorso. Ho capito, già lo so dove ce l'hai, che punto è, eccetera eccetera, e cosa la usi, però loro la conteggiano come seconda casa. Il tuo spostamento non è motivato, non è che tu vuoi andare, vedi, se lì avevi degli animali da custodire, animali di prima, come si dice, cavalli, come c'è scritto, maiali, eccetera eccetera, allora potevi muoverti, capito? Io mi buscio muovi da occhi, mi buscio muovi, sono già preoccupato che se questa cosa non finisce non mi posso muovere, neanche andare in campagna neanche io, perché non c'ho animali da custodire, non c'ho niente e motivazioni valide per lo spostamento non ne ho, perché non c'ho la residenza. Non ho anche problemi, ho già messo in aggiù la vagonia, abusiamo in macchina e... io sto andando via al depuratore di Sorso, sto andando, mi hanno chiamato un'emergenza e devo andare, hai capito? C'ho l'autocertificazione, autocertifico, lascio la macchina all'impianto e vengo a piedi. E io, la stessa cosa ho chiesto io a Gianni Serra, come altri dei vigili che ci conosciamo una vita, e mi ha detto stai a casa, poi non venire a rompermi le scatole perché c'è 206 euro di multa e lo spostamento non è motivato. Va bene, va bene. Io lì lo stesso c'è a casa tutto. Vabbè, pazienza, vuol dire ci rimaniamo qua, alla V, momento in basso chi fa il baravan, sarro tutti, no, che pongo l'ufficio, l'allarme, e me in campagna non mi muovo più anch'io, mi sono rotto le balle. Davanti ho... vabbè. E dove c'è la campagna? A Monteo. Ma cos'è, Fruttetto o cosa, Olivetto? Cosa? Fruttetto o Olivetto, cos'è lì? Fruttetto o Olivetto, allora, sono abbigliato da campagnolo. Non mi è tutto a cemento. Ah, un coso, una casetta. Sì, una casetta di 150 metri quadri. Quindi non è una campagna, è una casa, vai, col terreno. È 3.000 metri, terreno, ma c'è alberi di olivo e basta, forse c'è qualche alberello di sussina, qualcosa così, ma non mi interessa, non mi interessa. Io vado a star bene, non mi bongare da qua, e qua ce n'è poco. Io in casa, vabbè, ma vuoi che ti mandi la foto? No, vabbè, ci mancherebbe. Ok, vediamo, c'era che stava provando a parlare una mezz'oretta fa, se c'è ancora, se ha migliorato le situazioni, Nicola da Cappuccini, se ci sei, avanti. C'è il coso mio di WhatsApp, tu guarda che c'è nel coso di WhatsApp, a casa è 5 50 metri dal traliccio quello grande e ci metto al matto. Quello della Rai? Sì, io. E dove sei? Sul lato destro, salendo, siccome, o lato sinistro? Località Balcone, salendo a destra. Sì, no, la conosco benissimo, ci sono amici che abitano. E dove? Da che zona sei tu? Cioè, dopo di quello, superi il traliccio della Rai che te lo trovi a sinistra. Vai più avanti ancora? Sotto il traliccio sotto, guarda, ti mando la foto. Il traliccio sotto c'è la casa. E da dove entri tu per passare di lì? C'è la strada, c'è il viottolino, si gira a destra, è privata quella strada, c'è un interno. Infatti è serrata quella strada. Certo che sì, tutta asfaltata. Tutta asfaltata, adesso ti mando la foto. Riprendi o oggetto. A tutte le parti così. Allora, sono passato qua a fare la spesa, non mi serviva a niente, però mi ha chiesto la cortesia un'amica mia se riprendevo l'acqua, perché io c'ho il depuratore e non ne ho bisogno. E nell'hai vista cos'è la Cobe, quella che c'è in via Carbonazzi di lì? Sono stato 20 minuti fuori aspettando il turno mio, poi dopo sono andato a portare l'acqua e sono passato davanti alla Lidl. La Lidl, la fila dei carrelli era la via Corraduzza, io non ho mai visto una cosa del genere, nemmeno alla Conad c'era tutta quella gente, la Conad era pieno, però la Conad è più grande, diciamo, distribuita meglio, ma io non avevo mai visto la Lidl con la fila dei carrelli da via Corraduzza. E se ho visto la macchina tua in mezzo alle balle, non ti preoccupare, io ho appena andato via da lì, infatti ci ho rinunciato, sono andato via Maria a prendere le sigarette, guarda, ti ho mandato la foto, lo vedi il traliccio. Sì, ma questo non è il traliccio della Rai, chi è lo traliccio di Canale 5, del Mediaset? Vabbè, dice, beh. Quello che fa un pettecemento che non si vede, il resto poi vede l'altro più avanti. Tu abiti vicino a dove abita Riccardo, quello dell'officina, proprio attaccato, lui è di lì vicino, attaccato qua. Sì, me l'ha detto Riccardo, lo so. Ma questa è casa tua? Sì. Ecco, ti dice una bella postazione, lo sai tu, se ti piazzi le antenne, lì domini tutto, una bella zona è quella. Sì, ma lo siamo in pochi. Ti ha detto Riccardo che è venuto a volare a casa, sì? No, non ha parlato, il padre, tutti quei terreni lì sono di Rubabo, dalla famiglia, diciamo, dai. Hanno affittato, loro ci hanno venduto anche postazioni alle televisioni, alla radio, che poi la radio qualcuno se l'ha venduta a qualche televisione privata, perché loro tutto quel pezzettino lì era di Consul, di loro. E vabbè, te lo dico, invece che Roberto non mi va di fare qua, fatto un'operazione con mia figlia eccetera, dai, cioè, te lo spiego, ok, comunque hai visto, piccolina, no? Tu immaginati quando sono lì d'estate, con un portatilino copro tutta la Sardegna, e con il baracchino, che mi porto sempre il baracchino, adesso quest'anno se va tutto bene mi porto il 140, tanto c'ho anche il 140, 430, 440 e lascio a casa. Mi porto il 140 con l'antenna della macchina, arrivo al Ghero Santiago Off. No, è una zona eccezionale come sta di fatto, che lì tutte le postazioni radio di tutte le televisive le hanno messe da non so da quanti anni esiste il ponte a Rai, lì da quando esiste la televisione, il primo ponte di Sassari, hanno messo a Monteo, è una zona eccezionale come copertura, è meglio di quella lì per certi versi, perché però ti fa l'altra parte e Monte Alvaro, sono le due posizioni, postazioni eccezionali, vabbè, poi c'è anche Usilo che copre un certo zona. Sì, vabbè, vediamo se passa questo cacchio di corso, poi ti faccio vedere foto meglio, dai, perché non c'è solo quello, quella presa da avanti, ma come hai visto è due piano. Ok, avanti Eugenio, riprende e fa girare per Gianni, dai, cambiamo discorso. E tu usa le precauzioni, Eugenio, cosa devi fare? Non so, no, perché prima era una cosa che tutti stavano prendendo alla leggera, adesso sono tutti strizzati, capito? Perché hanno visto che ci sono un po' di morti, un po' di contagiati, e la cosa non è bella, perché tutti i giorni si pensa sempre che ti dicano che le cose stanno migliorando, invece ogni giorno si peggiora di più. Gianni, guarda la mascherina bella che c'ha Eugenio quando va a lavorare, guarda, te l'ho mandata su WhatsApp. Sarà quella dei Mautones. Guarda, allucinante. Te l'ho mandato, ma non ti avevo fatto ancora. avanti, quanto mai avanti. E ti danno anche la crema per attaccare, c'è una vaschetta che c'è la crema per il viso, per fare aderenza, e c'è il coso, la boccetta che ci puoi mettere l'additivo per dire se prendi qualche gas strano, ti danno la medicina, oppure la puoi usare per bere, c'è un tubicino, puoi mettere l'interfono, c'hai due carboni attivi di ricambio e tutto, tutto è in vetro, lo schermo è in vetro, se te la metti ti manca la reno, se ti piazzi i filtri non riesci a respirare, e poi puoi attaccare la bombola d'ossigeno, c'è un tubicino per attaccare la bombola d'ossigeno. E me l'hai piccata, chissà, chissà. Com'è che l'hai trovata questa maschera? Ma l'ho presa non meno di 15 anni fa, l'ho fatta a mio nipote, ha detto sì, fammela bere, se l'ha messa. Prima l'ha provata senza i filtri a carbone, e poi quando si mette i filtri a carbone, a giù mai non muore, è soffocato, perché è talmente aderente questa roba, ti chiudo tutto quanto la testa, completamente, tutto in gomma, c'è anche una specie di lima per tenerla in forma, ma è una cosa allucinante. Con dentro le molle interne per tenerti sono in metallo, sono tipo delle molle di penne a sfera, bicchi, però un po' più grosse, proprio ti schiaccia la faccia. Se ti metti i filtri a carbone senza l'ossigeno muori soffocato, cioè non puoi respirare, infatti è diventato rosso in un attimo, dice ma cacchio fai a respirare, senza i filtri già riesce a entrare l'aria, però se ti metti i filtri e non hai l'ossigeno muri soffocato, cioè finché ti dura il respiro, ma è allucinante. C'è una scatoletta tipo quella della crema Nivea in dotazione per mettertela nella faccia per non, forse non so se per non bruciarti, per non lasciarti segni, ma è allucinante. Per non irritarti, uia. Ma quelli lì quali sono? Quelli che si può attaccare l'ossigeno portatile? Ehi, c'ha un tubicino pure. La cosa bella è che poi ti danno una specie di bottiglietta in alluminio che la puoi attaccare sotto per bere, oppure ho sentito che può servire per metterti la medicina quando ci sono delle sostanze strane, in modo che respiri questa roba qua, non lo so, siccome non ho nessuna conoscenza di questa cosa. Fai l'aerosol. Sì, ho capito qua. E dove l'hai buscata questa cosa, questa maschera? Ma questa c'era un sacco di anni, c'ho anche un visore infrarosso, prima di sposarmi l'avevo preso, cacchio, 20 anni, di più, fai 25 anni fa, 23 anni fa, adesso sto dicendo fesserie perché mia figlia c'ha 22 anni e prima non era manco un'arda, per cui stiamo parlando 23-24 anni fa, e c'ho anche il visore infrarosso di questi dei russi, i primi russi che venivano a Sassari, non i polacchi, che poi sono venuti i polacchi, portavano tutte queste cose strane militari. Ma tu vedi il visore infrarosso, è allucinante, è tipo una cinepresa che schiacci, c'ha un pulsante e ti apre, ti amplifica la luce, ma tu con quello, con nero assoluto, proprio buio, questo, ho fatto delle prove dentro delle stanze buie, ma tu vedevi, non vedi nel senso la persona negli occhi, vedi la sagoma e tutto quanto, ma anche col tappo, se tu lo provi col tappo, funziona anche col tappo. Tua figlia ha 22 anni, Roberto, ma non sembra ieri che ti vedevo piccolini. Che veniva in ufficina, ve lo ricordo ancora, 22 anni, quanto tempo è passato? E adesso a maggio ne fa 23. Certo, vabbè, la mia ne ha 27. E tuo figlio, il piccolino Marcolino, adesso ne avrà una quindicina almeno. Marco ne ha 18, Marco è in quinta scientifico, Manuela si è laureata, si è laureata in scienze dell'educazione, adesso è a Bologna, sta lavorando lì, e ha preso la specialistica anche lì, sta lavorando lì in una comunità. Però Marco ha 18 anni, sta per diplomarsi. Ah, si cresce, ci sembra ieri. E tu oggi figli ne hai? Non c'è tempo, Gino. Li compri già pronti? Sì, a Porto, arrivano da Genova. Vero, Gino? Claudio, la tua gattina, Ilaria è la tua, così si chiama. Io gli ho detto, tu non ne hai figli, ti ha chiesto Roberto. E io gli ho detto a Roberto che non ne hai tempo, che arrivano già pronti da Genova. Vabbè, quanti anni ha mia figlia? Se avete piccoli voi. Dice che anche a me fa una migliore di niente di anni. Ilaria ne ha 35. Che grandezza, no? Pensavo fosse sulla 30, l'ha detto, c'avrà 30 anni, 31, invece ne ha 35. A novembre 35. E quando sei sposato tu? Io mi sono sposato nel 1984. Quindi no, facendo i conti, lei è nata subito? No, lei è nata nel 87. Ah, quindi già non hai fatto danno e ti sei sposato. Perché qualcuno si sposa, fa danno e si sposa. Cioè, sì, no, nel 87, nel 86. E io. Vabbè. Invece siamo venuti da là. No, beh, io mi sono sposato giovane, avevo 25 anni quando mi sono sposato, avevo tutto pronto, eravamo a casa perché siamo iscritti in cooperativa da giovane con mia moglie, tutte e due. Questa era nata come cooperativa, dove mio cognato era presidente della Lega delle Cooperative, quindi ci ha messo in mezzo e piano piano ce l'abbiamo fatta. E perciò era tutta pronta, arrivata eccetera, abbiamo detto ma cosa facciamo? Mia suocera poverina ha detto e cosa volete fare? Volete sposare? E lavando, ma io, ma ce ne avevano aperto la porta, c'avevo anche il frigo pronto, già pronto ad abitare, tutto appeso, quadri, tende, tutta arrivata era, tutta. E vabbè. Speriamo che ce la facciano i giovani a fare quello che abbiamo fatto noi. Vabbè, mia figlia non posso lamentare, mia figlia ha iniziato a lavorare a 14 anni, perché lavorava e studiava nel suo settore, capito? E adesso continua sempre. E questo coronavirus non ci voleva perché sono tutto bloccato, aspetta che abbasso. L'altra cosa. Eia, ok, il problema è fatto detto bene i figli, il futuro dei figli, come sta? Come andrà a finire? Boh. Ok, soprattutto i maschi, le donne se acciappano un macco che se le sposa, ma i maschi, il problema sono i maschi. No, ma io non posso lamentare, mia figlia ha già fatto il suo investimento, sta andando avanti, grazie a Dio, solo che adesso siamo fermi perché c'è questa cosa, capito? Va bene, dai, facciamo girare. Falcone, vuoi riprendere? Falcone non l'avete rilanciato già dalla mania e domani anche lui contro i milanesi. Riprendi tu Gianni, dai. Un minuto che arrivo subito. E oggi? Ah, ci sei ancora tu. Poi chi c'è? C'era qualche un altro? Ah, qui sei Giovincello. Quanti anni c'hai tu già? Ma vabbè, dai, non vi credo. Ma davvero, così giovane? Io ero convintissimo che fossi molto più grande. E pensavo che tu fossi intorno, non per la voce, no, per come coso. Pensavo dalla mia generazione ci avessi almeno un 44-45 anni. Allora già avevo ragione. Infatti, da qualche parte ho visto le fotografie tue. Tu la c'hai anche un Harley Davidson, non c'è? Ce n'è ancora. Come due. L'altro giorno me ne hanno portato una in officina, le ha fatto il serbatoio, una cos'è? Non me ne metto ma cosa. Bellina, quella che c'ha due marmitte laterali, che cosa? Nuova nuova, fiammante, questa qua, non so se gli è successo al serbatoio, forse gli è caduto roba sopra e gliel'ha fatto direttamente. Ma nuova, secondo me c'aveva un mese di vita questa. Poi abbiamo recuperato gli adesivi, perché quelli lì sono un po' delicati, con le scrive degli adesivi, quel marchio Harley Davidson. Bisogna essere appassionati però per quel genere di moto. No, ma guarda, io dico, l'Harley Davidson è come quando uno si compra il Porsche e non si compra il Ferrari, devi essere tagliato per quel genere di moto. Per chi piace niente da dire, però se io mi dovessi comprare una moto io non mi comprerei per i miei gusti un Harley Davidson, andrei solo sul BMW. Che cosa c'è di Harley Davidson? No, vabbè, già sono belle moto. Ti ripeto, sono molto per chi piace quel tipo di vita, eccetera, eccetera. Sicuramente non hai il comfort che puoi avere una moto tipo BMW, la tranquillità, tutti i motori che sono silenziosissimi, eccetera, eccetera. Però questo genere di utenti che usano quelle cose lì, sono tutti, diciamo, con la borsa dietro, con le, come si chiama, diciamo, un tipo di vita diversa. Tu sei camperista, per cui ti si addice bene. Infatti ti ripeto, non posso dire niente perché è un gusto di vita, è una scelta di vita, come quelli che gli piacevano la Rolls Royce e magari non si compravano il Mercedes, il supporto. Mi piace quel tipo, però dice, ma la Rolls Royce c'ha un motore di 50 anni fa, mentre il Mercedes c'ha il motore ultima evoluzione della tecnica, ecco, così l'Harley Davidson come tecnologia di motore, è un motore di tecnologia vecchio, robusto, indistruttibile, tutto quanto, però dice, cazzo, quasi un bel rumore, io preferisco una moto tranquilla, che cammina, che consumi poco, che non mi chieda nessuna manutenzione, nel senso cioè, che ci abbia poche vibrazioni eccetera eccetera. Sì, sì, no, non dico niente. Guarda, noi abbiamo fatto un restauro di un Harley Davidson targato Sassari 31 o Sassari 30, un nome, numero, due numeri era, del 26, una moto rara, tra l'altro un 350. Questa non aveva ammortizzatori, per dirti, solo dietro c'aveva quel sistema a parallelogramma e la sella era rigido il coso di questa fa. La sella c'aveva una molla all'interno del canotto della sella e buffa, eri seduto su un pezzo di ferro imbottito. Un 350 che per far camminare questa moto ti mettevi le mani in testa, c'erano poche leve, contro leve, arricchitore, comando del gas, le marce, c'è tutto sul serbatoio, doppio acceleratore c'aveva perché era uno per un carburatore, una cosa mai vista. Cioè poi a sinistra c'aveva l'acceleratore, a sinistra c'aveva dei solo per farla camminare vi vogliamo scienziare. Collega, non stavi parlando di me, forse abbiamo fatto a noi quella lì, ci ha preso una perdita. Ma chi stai dicendo? Danilo? Sì che lo conosco, ma io sto parlando di una moto del 1926, non sto parlando di una moto recente. Sì, sì, no, vabbè, stiamo parlando di due cose, io sto parlando di una moto, proprio lì che sono quelle della guerra, della prima guerra mondiale, successivi, non so se hai visto il film La Grande Fuga, quelli che scappano dal campo di concentramento, con Steve McQueen che alla fine scappa in mezzo ai campi con quella moto. Una volta ho visto un matrimonio, oggi a Porto Torres, con tutte le divisioni, quando sono stati gli sposi hanno schioppettato, quando è morto, lo conoscevi quello che è morto, che c'ha le Davidson, Lotti con Renato? Comunque ho risolto, vi sentite? Quella l'abbiamo fatta noi, l'arancione, quel corso al battuglio, quella lì cos'era? Non mi ricordo se era 883, buono, non me lo quello lì quando è morto, tutti quegli amici suoi colleghi sono andati in chiesa e hanno fatto il rumore, il rombo. Ma chi era? Luca del Monte? Sì, sono io. E con cosa sei? Oh, ma la chi ho modificato. Piccata, il segnale è fortissimo, però la voce è buona e strana. Lo so, è l'apparecchio. Allora, Gianni, dammi un controllo tu, perché diciamo, il PL è messo male. Sicuramente da, boh, non lo so, perché come si chiama? Quello di Porto si arriva a basso. Dammi un controllo già, prova un po'. Non avevo gli occhiali, aspetta, prova. Comunque il QRM era dovuto dall'alimentatore. Prova un po'. Che è il solito segnale, dai, è il solito segnale. Da te che ha detto qualcosa, Bruno Torres? Boh, non mi arriva anche lui basso, cioè, uno è la zona, dai. Non me da te quanto arrivo, ora un po'. Sei leggermente più forte di Gianni, 9,25 con i picchi positivi. Però ti presente che anche a Eugenio le arrivo basso, anche io, mi pare le arrivo 6, Luca, non so lui che tipo di indicatore. Anche qua, Lu, 9,25, 5 punti in più di Gianni, Gianni 9,20, va bene. Vabbè, claro, tu hai il tuo segnale, là, prima eri più basso, l'ho regolato, lo smitter, ma c'è a posto. Anche tu sei quasi 30, Roberto, lo stesso. Vabbè, mi sono appena rientrato da via Carlo Felice, all'Eurospin, mi sono fatto un'ora di fila. Prima devi fare la fila per il carrello e poi devi fare la fila per fare la spesa. E poi devi fare la fila per pagare. Pensa tu, un casino niente. Io lo so, l'ho visto stamattina. Lo so. Vabbè. Dai, continuate, comunque già si è a posto, 9.25 Radio 5 a bomba. Sono qua, io in ascolto, sto facendo cosa. Riprendi, Luca. Aspetta che sto cambiando radio. Perché Luca c'è questa radio nasina tutta strana? È nasina la radio? C'è il microfono, deve essere un colt, vabbè. Ma c'è anche una specie di eco sotto? Sì, c'ho l'eco, cambio. È modificato, però adesso, aspetta. Però adesso va sul T0. Boh, togli tutto quanto l'eco, per curiosità. Luca, buongiorno. Ciao Eugenio, ben sentito, dai, le prossimine. Ciao Natalino. Ciao Eugenio, dai, alla prossima. Natalino adesso è forte qua. Glielo credo. Ciao Luca, ciao a tutti, dai, sto andando a pranzo, ci sentiamo alle prossime. Ciao. canale natale più simile. No, lo so, Luca, abituato a sentirti la voce tua spettacolare, cioè la radio è fortissima, niente da dire, è chiara, però sembra che stai parlando col microfono attaccato troppo alla bocca. Ma se mi stacco non cambia niente, guarda un po', sono staccato adesso. Boh, troppo nasina, per i miei gusti va bene, cioè si ascolta, chiara, niente da dire, però tu eri una delle migliori radio su questa banda cittadina, era una, la tenevo sempre come riferimento, la radio tua era la migliore di quelle con i baracchini. Vabbè, la radio là è dalla mia 25, dai. Vabbè, io sono entrato così, sono appena arrivato, adesso scappo, ma li sentiamo da giù stasera. Buon pranzo a tutti e alle prossime. Dai, ripeti tu, Robe, ciao. Ciao Lu, alla prossima, dai, vai Gianni. Ciao Luca, ben sentito anche a te, dai. Buon corretti. Cosa è 48, già? È positivo, va bene, dai, non c'è problema. Ma aspetta Roberto, guarda così Roberto, portante è muta, mi devi dire se il segnale sale, guarda. È salito? A Vuglia, quasi 10 punti. Addirittura 10 punti, e questi sono i vatti regolabili, dai. Anche da te già, da te no sicuramente. Qua sì. Sento anche la tecla, ma boh, allora pensavo fosse una cosa così, boh. Giusto perché lo smitter sale, magari. Sì. Qua c'è, non so quanti fatto da neanche, boh, 25, ma 20 fatto, boh. È quasi sul 30 secondo 20. Prova a parlare tu Gianni, vuoi vedere qual è più bella modulazione, la tua o quella di Luca? Sì, guarda, 1, 2, 3, prova. Cambio. Più chiara la tua di quella di Luca. Non cambiare il microfono, l'ha capito. Confermo anche io, quella di Corso di Gianni è più naturale. È bella quella di Gianni. Ma qua devo cambiare il microfono, dai. Adesso appena ho possibilità lo faccio, capito? Ma buona, buon pranzo ragazzi, ciao, va bene. Ciao Lucrezia, cambi. Ciao Nannini, cambi. Cacchio, una volta non sentivo le modulazioni a mo' di camionista, chiaramente a Gigino Vulcano quando si sentiva da 20 km prima di arrivare sentivi l'ecco. Vabbè, sono le scelte, io ce l'ho uguale a quello di Gianni Colt, non la 48 è dentro l'armadio. Non lo uso perché non mi va, a parte il fatto che disturbo tutto, quindi. È l'unico baracchino che mi rientra anche nelle radio, tu immaginati che io ho tutto acceso, parlo qua, non si muove niente, con quella lì vedi di smitter tutti che si spostano, che vanno per i cacchi su, troppe spuglie, troppo casino fanno quelle radio, meglio lasciarla stare al posto suo, sono radio per usare in macchina, e poi splatter che non prendi, mamma mia, guarda l'hai già attaccato già. Noi eravamo sul canale 10, stavamo giocherellando con Massimiliano, ci facevi anche tu, io Massimiliano, tu, non mi ricordo chi c'era, Daniele, e sentivo quelli del 23, ha detto Voga, venduto Voga. Anche a me è successo, sì, spattano e prende, però disturbi non ne dà questo qua, ho provato, controllato, televisore, tutto quanto, non la disturbi di niente, è bello e scarmato. Questo qua è il primo che ha fatto Gigi Vulcano, capito? È il primo apparato che ha avuto. È quello più fatto con... come si deve, dai. È quello che lui non voleva dare a nessuno, che poi sono andato io e sono riuscito a farmelo dare. A me sembra che stai sbagliando tu, perché anche il mio è quello di Gigi. Anche il mio è quello di Gigi, che l'ha fatto Piero Macrone. Piero Lumaccone, anche il mio è quello di Gigi, non so se è il primo o il secondo che mi ha dato a me, comunque quello che aveva nel camion anche lui. No, il mio è perfetto, non è che disturba la televisione, no. Mi fa impazzire le radio, non la televisione, no, mi fa impazzire le radio, invece è talmente potente, forte, che mi muove tutti gli smitter, un casino fa, allora lo tengo staccato. Per poterlo usare devo tenere tutte le radio spente, ma anche le V e le U, invece con questa e con gli altri baracchini, anche con quello di Piangelo, con quello che di Massimiliano, veniva uno di Massimiliano, lo stesso fortissimo, non fa niente alle radio. No, la televisione non mi disturbo io. Non l'attacco perché non fa, capito? Ma è d'estate, qualche volta lo attacco. Però così, a usarlo così in città non fa. Troppi colpi prende. Non intendo nulla. Cambio. Come gira questo, Claudie? Ora, attenzione Claudio Sparviero, se ascolti il doppio run che chiama, cambi. No, questo gira bene, te l'ho sempre detto. Però è da macchina, già, a casa, ti ripeto, non fa, io l'ho attaccato e... no, gli ho cercato giù, è roba di colpi, prendi. Se vuoi pinaggio l'Herbert, se non ti sente nuda. Nulla, mi bello silenzioso, bello ordinato, pulito, è forte con la radio. Io la uso con MB+5, roba, non se mantesce bene. Sempre detto Pinangelo che usava quello per non prendere splatter. Ma io sono sempre stato contrario a tutti questi effetti strani, ecco, riverberi e cose varie. La radio deve essere più pulita possibile, nitida, come una telefonata, poi tutto il resto sono macchine. Io invece a me mi piace avere tutti i tipi di radio, quella potente, quella normale, quella con l'eco, mi piacciono tutte. A volte uso una, a volte uso l'altra, non ho preferenze, mi piacciono. Diciamo che questa qui non è che la uso, io ce l'avevo in macchina questa qua, per lontananza. L'ho accesa adesso perché ho sentito a Luca per fare la sentita. No, vabbè, non è che... anche a me piace avere tutto, c'ho tutto. C'ho le radio professionali come questa, io c'ho il 30, il 430, il 440, il 140. Ci sono tutte e tre, e poi tutte le robe, quello amatoriale, però c'ho anche baracchini, quello corte, quello non corte, quello base, quello alvolare, ne ho dentro l'armadio. Mi piace avere tutto così come Gianni, chiaro che poi sono scelte, non è che puoi mettere a fare questi o e faccia la recce a ieti. Se lo vuoi usare, come a volte faccio io chiudo tutto, perché si può chiudere, lo uso anche col microfono preamplificato, è un baracchino normale. Se poi ti vuoi divertire un pochino, vai su 45 e ti diverti. È bello avere tutto lo bello. Se no diventa monotona la cosa, dai. Va bene che va bene. Che ora si è fatta? Poi io devo fare carbonara oggi. Oggi vorremmo carbonara, l'una meno 20. Altri 10 minuti e poi chiudo tutto, dai. Eugenio, mi sese? Ha salutato, io. Cara, una cosa. Cacca, lo stesso, non l'ho ancora provato, me l'ha portato un amico, un tricol di Trio, una radio base, stazione base, un tricol insomma il campo che mi ha dato a me, quello grosso. Beh, certo, me lo ricordo. Il Trio, ma il Trio chi vuole? Il ricevitore, quello valvolare? È un apparecchio grosso, è più grande di quello che mi ha dato, di quello digitale rosso della Sommercamp, ti ricordi quello grosso che mi ha dato tu, qui è ancora più umano, mi ha detto provalo, l'abbiamo acceso però non aveva antenna, non ho avuto modo di provarlo, ha detto provalo, accendere, ha detto vedi a casa della Trio Kenwood. Sì, l'ho avuto, ma ragione, è più grande del, io ho fatto l'FT101 Digital della Sommercamp, sì, quello grande. Quello è ancora più grande, si va a volare, decametrico, funzionano bene, un ricevitore della Trio che aveva fatto la Trio Kenwood da allora, funzionano bene, sì, ma puoi attaccare anche la mantova, se funziona, che le valvole sono a posto, il ricevitore a posto, senti bene anche con la mantova, non c'è problema. Lo devo provare, c'è un'officina, c'è più di un mese di lì, metto, te prendilo, prova, poi se lo vuole qualcuno, ma c'è gli occhi e me lo regala pure, mi si sta tirando il collo perché io ho quello della Grundig, quel ricevitore dei satelliti, quello grosso, ne ho due di quelli. Vuole dai dammelo, ti do le metti 3000, ti ho detto no, ma lo tengo di scorta perché è una radio troppo bella, ho detto, mi dispiace, anche se le metti 3000 c'è una valutazione di almeno 300 euro. Guarda che la valutazione del 101 digital, vai, quello che ti ho dato a te, digital, guarda la valutazione, 350 euro, l'ho visto l'altro giorno, allucinante, di 101 ZD, 101 Digital, tutti quelli della Sonaca, 102, stanno salendo di quotazione, una cosa allucinante. Ma quello lì era di Giovanni, così è, Giovanni Marrucchino, lui te l'ha. Quello che sto dicendo io, quello della Trio. Ehi, è di lui. Ma lui c'ha qualche altro apparecchietto. L'MT3000 è il suo nuovo. Ah, oh, anche il mio, quello che mi hai dato tu, l'avevo sistemato. Ti ricordi là? Sì, già lo so, Giovanni. Non voleva lui il 101 Digital. Ti do un quadro di Meredina. Ah, Tenali, già vai, finita. Cosa guardo di Meredina? Non me ne posso dare il quadro. Io ho il quadro. I quadri di scena, i quadri di spara, di tutto di più, si signor sai, ne ho quadri quotati io, a parte che ne ho qualcuno mio, ma tanti erano di mia suocera, che era amante di queste cose. Se molti quadri li porto a vendere, ho un pacco di quattrini, ma non mi faccio niente di quadri, capito? Assolutamente. Se lo voleva. Il giorno che viene a casa tua e lo vede, mi fa zappetti, mi fa. No, siamo lontani. Lui è pittore, anche abbastanza portato. Adesso ha perso un po', però lui un sacco di quadri sui, ci sono impulsi anche abbastanza importanti. C'è uno stile che adesso poi l'hanno copiato, quello Rascati. Io ne ho già qualcuno di quadri sui, ogni tanto mi regala qualcosa, ma ne avremo decine e decine di quadri sui. Poi serigrafie e cose, ogni tanto vengo in officina a qualche lavoretto, te prenditi qui. Mi ha regalato poi, ti ricordi tu, il RTTV, quelli che c'era il tipo telescrivente? Sì, ma se c'è collaboratorio sotto, scusa, già collaboratore sotto casa sua, è tutto pieno, aveva l'antenna, glielo ho detto, la mettiamo a posto, intanto macchina, non va, sai come parla lui, no? Non c'è più nessuno qui, la cosa non c'è più nessuno, ma no, vai, non è mai fatta attività Giovanni, io sono radioamatore dal 92, lui è molto più vecchio come radioamatore, come persona, ma non ne ha mai fatto attività, entrava ogni tanto così, poi Walter è riuscito a convincerlo ad entrare in VHF, ogni tanto a fare due chiacchiere, e si è messo in Libia, non è più entrato, ma sì, io so che è quotato, però a me non me ne faccio niente, io dei quadri in cambio di radio, cosa me ne voglio, c'è una casa piena di quadri, ne ho anche dietro un mobile di quadri, perché quando sono venuto qua io tra quelli che c'erano le mie suci di quadri e quelli miei non ce ne stanno più, quindi qualcuno l'ho conservato, capito, non li porto su in mansarda perché non si sa mai, meglio rubio, però ne ho due di spada io che in linea sono costati 1,5 milioni quei quadri, lascia aperto. Va bene, comunque sì, ma io non ti ho dato solo quella, ti ho dato di radio vintage, ti ne ho dato parecchie di radio vintage io, quindi costruisce bene, perché quelle stanno acquistando un valore allucinante. Ehi, attivamente l'Aria Classica, che poi mi aveva chiamato un amico noto senza far nome, se gli davo quella lì che funzionava, lui me ne dava un'altra che non funzionava, dice tanto a te non ti serve. Allora, tu c'è la mia Aria Classica anche, bellissima, a bande verticali, e le ho date tutte a te quelle vintage, perché tanto io ho smontato tutta l'altra parte dove c'erano tutte le vintage, ma vintage come contropalle, perché tu ce le hai veramente belle quelle che ti ho dato io, c'è la linea Sommercamp, 101 Digital, c'è la linea Lecraft, ti avevo dato quello V della Kenwood base, sempre vintage, quell'altro lo stesso vintage della Kenwood, te l'ho dato, no, te l'ho dato con cuore perché so che tu lo costruisci bene, quell'altra persona si vende in duto, rifascia, la mette lì, ma lascia perdere. Vai Giannetto! Oh vabbè, ma tu li me la ma è poco! Ma li metti in vetrina oppure li tieni come stazione? Vedi là Claudio, non me ne tengo, se ti vedi la cosa, ho 4 metri di parete io di radio, ho una cosa, un tavolo di 4 metri con tutte le mensoline, ci sono 1, 2, 3, 4 ripiani di radio ci sono. Già, Roberto, c'è una bella sala radio, c'è una stanza come la mia, adibita sala radio ufficio, bellissima, molto bella quella Roberto, tutto ordinato, ma c'ha bellissima radio, bellissima, c'ha tutta la parte vintage, a parte quelle che gli ho dato io, ma ne aveva anche lui, c'ha belle radio Roberto, Roberto non ha baracchina a Lugano, Roberto c'ha belle radio, perché a livello materiale penso che sia bene bene bene organizzato. E allora perché non ti prendi la porta che radiamo ancora, Roberto, c'è che ci sia. Vabbè, ci vuole tempo, dai. Se adesso c'è il coronavirus, magari se c'ho più tempo ci penso. Se considerato che c'è tutte queste stazioni, raro. È un peccato non potermi usare le trasmissioni. No, a me mi piace soprattutto fare ascolto, ho sistemi di ascolto di certi livelli, da apparecchi di alto livello, con analizzatori di spettro, analizzatori di segnali, eccetera, eccetera. Mi diverto così, io, dai. E qua ogni tanto entro qua sulla 27 e qua ci facciamo qualche chiacchiera, anche se non da molto tempo di cose. Ma a me il piacere mio è ascoltare radio che altri non ascoltano, nel senso che non hanno le attrezzature per ascoltare, come con i satelliti, cioè gli impianti di un certo livello satellitare. Adesso magari non ne frega più niente a nessuno perché ce ne sono milioni di stazioni, ma quando ce l'avevo io 20 anni fa, io mi guardavo le partite, nessuno le vedeva 20 anni, 25 anni fa, le partite senza che nessuno, ancora non esistevano le televisioni, queste pay tv eccetera, era bello vedere i trasferimenti, e così mi piace ascoltare stazioni radio lontane che raramente la gente riesce a ascoltare, almeno qua in città. E vabbè, ma per fare ascolto non bastava un ricevitore, scusa. Ma senza criticare il 140, secondo me è una penalità di un baracchino, perché è molto rumoroso, cioè se prendi 440 il salto è evidente, ma tra un buon apparecchio, come si chiama, un buon baracchino, parliamo un po' come ricezione, parliamo come prestazione di altre cose, parliamo come ricezione, io ho un Intec, una stazione fissa di ultima generazione con tutti i filtri e tutto quanto, e ti posso dire che in ricezione è meglio del 140. Con 140 è un'altra storia a livello di qualità costruttiva, di funzioni eccetera, però se tu devi ascoltare un segnale lontano sulla 27 e l'ascolto con 140, ti posso dire che quel tipo di Intec è leggermente superiore perché è molto più filtrato, più selettivo, poi magari di uscita è una gagada perché non ci vuole un microfono di un certo livello, mentre il 440 rispetto al 140 posso dire che è un pochettino migliore. Il 140 c'ha il difetto della regolazione della potenza, scomodissimo il microfono, il mickey gain, il 440 è un po' più versatile, diciamo un po' più bellino, dai. È anche più selettivo come ricezione, oltre che di potenza spinge un po' di più, c'ha più memorie, infatti se uno deve spenderci i 300-400 euro meglio che si compra un 140, un 440 anziché un 140. Vabbè, però i difetti che fa il 440, 140 lo fa, 140 è un caterpillar, 140 lo lasci spento un mese, guarda io ce li ho tutte e tre, 430, 440 e 140, è sempre spento, quando lo accendo così ogni tanto per tenerlo un po' in ricezione e usarlo, perché intanto non ve ne accorgete, io adesso non so neanche cosa sto usando, non sto usando il 440, la lavorazione è sempre quella, poi lo uso tutte e tre, quello lì può rimanere anche un mese spento, se io lascio un mese il 440 spento, lo accendo non funziona più, ha un difetto che non si è mai capito il perché, cioè una radio che non può rimanere spenta tanto tempo, capito? Perché i condensatori vanno a casino, mentre il 140 e il 180 sono le caterpillar, fatto vedere da me che io sono a Sassari, uno forse dei primi, se non il primo, che dal 1986 ha usato il 430, quindi poi sono andato a salire, ho comprato il 440, ne ho avuto una ventina, già usai, il 140 ne parliamo, il 80 lo stesso e il 430 lo stesso, il 430 io ce l'ho 10 anni, mai fatto un difetto, mai, si è bruciato il display, l'ha cambiato Fabrizio, qualche falso contatto, due o tre volte l'ha preso in mano Fabrizio, però difetti non ne ha mai fatto come il 440. 440 è la terza volta che viene fatta la parte del VCO, capito? Sì, sì, confermo, te lo dico anche io, lo 740 non ha avuto nessun problema. Quello lì, l'unica cosa, la partita finale, perché l'aveva fatto funzionare da nuovo fiammante, senza antenna aveva fatto, ho crepato tutto, non ricordo il problema. Però per il resto, come hai detto bene, da quel punto di vista un muletto non si rompe mai. Il 440 purtroppo forse è un po' più soggetto a difetti, display, ogni tanto si spegneva il VCO, già lo sai meglio di me, non te lo dico, non c'è bisogno di dirtelo. Però stavo parlando a livello di prestazione, in ricezione il 440 è migliore del 140. Mi sono pentito, purtroppo non ci siamo capiti per il famoso 940, non ci siamo capiti. Ma perché tu sei rincoglionito più di me? Io non lo stavo vendendo. L'avrei voluto dare a te volentieri, in cambio di quella di quell'altra roba là. Invece ci siamo capiti e quindi io l'ho venduto. Venduto, che già ne fai, ne avevo 6 di HF, no, io il 430 è simile al 140, nel senso che non fa difetti di VCO, lo puoi lasciare spento mesi, anche un anno, non riaccendi, può avere qualche altro difetto di farsi contatti, perché è molto soggetto a queste cose. Io dopo quando ho trovato uno, l'ho acceso, stavo trasmettendo tranquillamente, a un certo punto è mancata la ricezione, avevo un colpetto sopra il coperchio e ripartiva la ricezione, gli interventi, l'ho aperto, l'innesto praticamente delle, sai, si consuma, non so, forse sia perché è plastica, ho preso una fascettina di quelle piccoline, gliel'ho agganciata, l'ho legata all'altra fascettina di filo, boh, non l'ha più fatto, dei contatti non l'ha più fatto, cioè a questi livelli, capito? Però altre cose da fare, io sto usando il 430 già da diversi giorni, giusto per farlo andare, la modulazione è bellissima, come ricevitore il 430 è superiore al 440, su quello non si discute. Vai Gianni. Ma sono qui, dimmi, quelli che ci possono dare la ricetta sono qui, 3 o 4, giusto? Poi gli altri non vanno bene. Quelli che vanno bene sono 4,30, 4,40, 140 e poi anche 9,80 va bene. Anche 9,40 c'è bene 27. Beh, gli abbinamenti devi fare già. Io ho sempre fatto abbinamenti di microfono Kenwood Yaesu, Yaesu Kenwood, Kenwood, Icom Yaesu. Capito? Io con 950 della Yaesu ho questa modulazione, ma perché? Perché uso l'MC60 col cavettino Yaesu, capito? Mi sono fatto fare da Andrea lo stesso cavetto originale, ne avevo 2 di cavetti Kenwood sfidalati, uno ce l'ho Kenwood originale, l'altro sempre Kenwood originale, però col connettore Yaesu. E lo attacco al 950, c'ho questa modulazione, perché spinge il microfono, spingo io, spinge la radio. Gli abbinamenti bisogna fare, e anche l'SM20 che della ICO io lo monto su, lo metto qua sul 430, sulle radio Kenwood esce uguale all'MC60. Delle prove che abbiamo già fatto, capito? Mentre invece l'ICOM col suo microfono in AM non funziona bene. L'ICOM fa molto bene in AM con il microfono della Kenwood o il microfono della Yaesu. Tutti abbinamenti che ho già fatto, sperimentato e visto. Sì, le radio sono quelle, però 27 sono quelle. Vai Robert. E invece il 940, di trasmissione è una cagatina in AM uguale, no? Cosa Robert? Il 940, eccezione, a me piace come ricevitore, per utilizzarlo come ricevitore è una bomba, poi indistruttibile. Ho visto anche dei film in Vietnam, li hanno usati pure quelli gli apparecchi lì, gli americani. Però non in Vietnam, scusa, guerra del Golfo, la sto dicendo Vietnam. E l'unica cosa è che la trasmissione non va in AM. Come non va in AM? Non ha la potenza, mi pare c'ha 50 watt, non ha la potenza massima, ma va. Io l'ho sempre usato in AM con l'MC60. No, non va, nel senso qualitativamente rispetto a un 440 e un 430, l'emissione è un po' strozzata. Sì, beh, non ha le caratteristiche tipo queste, piccole, più adatto per la banda laterale, per l'FM, però ti posso dire che va. Tranquillamente, le ho provate tutte, ripeto, non per, però io dal 1986 che ho per queste radio le conosco come le mie tasche, difetti, pregi, eccetera, eccetera. E vanno bene, vanno molto bene. Ok, dai signori che mi hanno chiamato per fare la carbonara, già l'una meno 5, quindi è già ora di mettere quasi i piedi sotto il tavolo. Piacere aver chiacchierato, un saluto circolare a tutti, anche a chi sta ascoltando, Roberto, Gianni e chiunque. Dai, ci aggiorniamo stasera, tanto siamo a casa, perciò ne abbiamo tempo di chiacchierare. Ciao ragazzi, vai già. Ehi, ciao, a carbonara ci mangia la carbonara. Va bene, buon appetito quando farai il carica, dai. Avanti. Ehi, ciao Fla, ben sentito, buon tutto, dai, anche io vado a mangiare adesso, ci sentiamo magari se coincide il pomeriggio. Ciao ciao, correte da parte mia, ciao. Ciao ciao Robe, buona carica anche a te, dai, ciao a tutti gli amici che ce ne nascono. Ehi, già, dai, preparati la brutta una carbonara veloce. Suoniamo voi, la verità, ciao Robby, ci aggiorniamo stasera. Infatti, a carbonara si mangia la carbonara. Se non sai più cosa fare già, se non le balle piene, oramai abbiamo fatto di tutto e di più. Mi ho preso anche il lievito stamattina, lievito per dolci, c'è a casa mia figlia, ho detto papà stasera faccio un dolce, almeno ce l'abbiamo, visto che fine settimana, e poi però stanotte facciamo le crespelle. Io non c'ho pancetta, non ne ha trovato l'indiana ieri, aveva fatto la spesa lì ieri, non ne ha trovato pancetta, non ha trovato pancetta, non ha trovato salsiccia, non c'era più capo, sembrano mangiati tutti con cazzo. Siamo andati noi, per fortuna abbiamo fatto il pane. E vabbè, mangia, c'ho già un cesaraccio, già il pane, già. E già, anche io, alcune cose non le ho trovate, è un casino. Poi adesso sarà ancora più critica perché in pratica ci sono gli orari ristretti dei cosi, dei supermercati, quindi tutto quello che c'è, se non va il prezzo, se lo prendono, capito? Vabbè, dai. Ok, già, ci aggiorniamo stasera. Ciao, buon pranzo.